questo è il ballo. Lei ha già citato le antiomelaridecee che mi si attorciglia la lingua. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. Vedi che oggi Antocianine, Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, oggi buongiorno, oggi abbiamo le papere. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. La felicità. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Questo senso di festa che vola e che va sopra tutta la città. Nella lunga estate caldissima. Questo senso di vita che scende e che va dentro fino all'anima. Allora, le conseguenze del caldo bestiale, delle temperature eccezionali di questi giorni sono state davvero tante. Allora, sì, intanto la prima è che a Nicoletta non riesce a sentire la cuffia, quindi anche i nostri adesso mixer stanno andando in vacanza. Allora, tra le peggiori di queste conseguenze, allora adesso ti sistemiamo sei tutto. Sei tu che fai la voce. T'ho boicottato la cuffia prima di andare in vacanza, beccati questa. Così vengo in vacanza con te. E lasciamo da soli tutti quanti qua la prossima settimana. Quindi abbiamo già fatto l'annuncione che dalla prossima settimana io non ci sarò, vi lascio in ottime mani con quelle di Nicoletta. Sì, magari il cursore della cuffia devi inserirlo e poi magari si sente meglio. Ribadisco le conseguenze del caldo. Fra le peggiori che hanno dovuto subire in molti in questi giorni, oltre a quelli che non possono tanto proteggersi da queste temperature, le hanno subite i pendolari di molte tratte ferroviarie italiane. Immaginate con 40 gradi di temperatura cosa possa significare viaggiare in un convoglio in cui ad un certo punto l'aria condizionata va in tilt, il treno si ferma. Ho letto addirittura di alcune tratte in cui i binari hanno toccato i 60 gradi, quindi solamente per cuocere le uova. Esatto, anche una bistecca, una bella fiorentina, perché poi molti disagi sono stati in Toscana. Carini, lo so, però era per rendere più calzante l'esempio. Così anche a noi è capitato, Il viaggio di andata per Montepulciano, devo dire che 10 giorni fa non è stato proprio fresco. Il mio ritorno è stato con un ritardo di un'ora e quindi ecco, abbiamo messo insieme un po' tutta la rosa possibile dei disagi che si possono verificare. Quindi fra ritardi, cancellazioni, carrozze trasformate in forni, in questi giorni muoversi con le ferrovie è diventata su tutte le tratte nazionali per molti solo una grande disavventura. Noi ne parleremo se riusciamo a trovare tutti gli ospiti che abbiamo invitato, perché fra le varie disavventure stamattina a quanto pare qualcuno non risponde neanche al telefono. Ne parleremo in questa prima parte della trasmissione. Naturalmente chiediamo come sempre il vostro contributo. Se anche voi eravate a bordo di una di queste carrozze bollenti, abbiamo chiamato questa puntata Treni Bollenti e non perché si verifichino chissà quali storie hard lì dentro, iniziate a raccontarcelo all'800 24 00 24. E non solo a chi viaggerà in treno, ma anche a chi viaggerà in macchina, in moto, chi si sposterà a piedi, chi in bicicletta. Dedichiamo la seconda parte della trasmissione. Scegliete voi la destinazione, il mezzo di locomozione. Noi, come si dice, ci mettiamo l'esperto che ci aiuterà a prevenire, a curare tutti quegli acciacchi che spuntano fuori quando teniamo per troppo tempo la stessa posizione, ore e ore passate al volante nel traffico, o per i più fortunati diretti al mare o in montagna, ma che si presentano anche quando improvvisamente ci mettiamo a fare qualcosa di nuovo. E aggiungo anche qualcosa di piacevole. È così. Vi è capitato? 800 24 0024 di rimanere bloccati? Ditecelo. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Un treno dei desideri. dei pochi desideri ma basilari viaggiare in orario con una temperatura sopportabile. Sappiamo che purtroppo per tanti negli ultimi giorni non è stato così, tantissimi i disagi per quello che riguarda le ferrovie nord, quindi tra Lombardia e la Liguria. Poi c'è stata una vera emergenza in Toscana, pensate che addirittura Trenord, la società di regione Lombardia e Trenitalia che si occupa delle linee suburbane e regionali di quest'area, in una nota ufficiale ha chiesto addirittura scusa formale ai viaggiatori, chiedendo loro di avere pazienza. Ma insomma, macchia d'olio, situazioni di questo tipo, anche se non con i medesimi e duraturi disagi, si sono verificati anche altrove. Ovviamente le associazioni dei consumatori hanno subito drizzato le antenne, in particolare lo hanno fatto le tre di Rete Consumatori Italia, Assoutenti, Casa del Consumatore e Codici. Allora, noi stamattina abbiamo intanto il piacere di avere con noi un amico di Cuore e Denari per Codici, Luigi Gabriele, buongiorno e bentrovato. Non lo abbiamo, adesso lo salutiamo, lo abbiamo in linea, non ci sente, ma lo recuperiamo subito. Poi ci fa molto piacere che anche Trenitalia abbia accettato il nostro invito per cercare di ricostruire l'accaduto. Saluto e ringrazio Orazio Iacono, direttore trasporto regionale di Trenitalia. Buongiorno dottor Iacono. Buongiorno a voi, sono io che ringrazio voi. Benvenuto. Grazie. No, tra l'altro noi ringraziamo doppiamente di questa presenza, perché proprio nelle ultime ore, proprio ieri, c'è stata una riunione di emergenza dei vertici delle Ferrovie dello Stato sulla situazione che si è creata in Toscana nelle ultime ore, anzi negli ultimi 10 giorni, con guasti, una serie di disagi, e mi hanno raccontato che era molto aveva un certo disappunto l'amministratore delegato Michele Elia, perché ha detto chiaramente non è ammissibile quello che è successo in questi giorni. Prima di tutto viene il cliente, che deve viaggiare in perfetto orario, in assoluto comfort, a cominciare dall'aria condizionata delle carrozze. Come mai si è saltato tutto non lo riusciamo a capire, ma adesso il dottor Iacono ce lo racconterà. Detto questo, però, io vorrei cominciare subito con una testimonianza con la quale entriamo nel vivo di queste vicende di questi giorni. Saluto Enrico, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, faccio fare a lui il proprio biglietto da visita. Enrico rappresenta un gruppo di pendolari. Quali sono state, Enrico, le vostre peripezie di questi giorni? Allora, io rappresento in particolare i pendolari Genova-Milano, 800 persone, in generale rappresento tutti quanti i comitati pendolari federati da Assoutenti, e diciamo che in questi giorni abbiamo raccolto migliaia e migliaia di testimonianze scritte. Non ci siamo limitati a questo, abbiamo organizzato pattuglie di nostri tecnici, medici e fisici con termografi sui treni, e abbiamo, diciamo, registrato dei casi in cui le temperature all'interno dei treni senza ricambio d'aria, con finestrini bloccati, arrivavano e superavano i 45 gradi. I nostri consulenti medici ci hanno detto che il fisico umano, dopo un'esposizione di 15 minuti a 40 gradi, inizia a entrare in sofferenza. A 45 gradi c'è il colpo di calore che può portare anche conseguenze molto molto gravi. Soprattutto nelle persone a rischio, certo. Soprattutto nelle persone a rischio. Detto questo, diciamo che cosa è successo. Da 24 giorni noi stiamo subendo delle condizioni di viaggio inammissibili. L'altro ieri abbiamo ricevuto anche noi le scuse ufficiali da parte dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato. Lo ringraziamo, anche se riteniamo che le scuse sono state molto molto tardive. Ma soprattutto, insieme alle scuse, riteniamo assolutamente insufficienti le risposte operative messe in campo da Ferrovie. Allora, voi cosa vi aspettavate che facessero, e poi che cosa hanno fatto? E vediamo poi col dottor Iacono se effettivamente sulle tratte, almeno di loro competenza, perché poi c'è tutto l'ambito di Trenord, possono fare qualcosa, certo, in più. Ci dica, Enrico. Certo. Allora, innanzitutto al dottor Iacono lo ringrazio, inizio così, perché voglio sottolineare che la direzione che lui dirige, che è quella regionale, è stata la prima direzione di Trenitalia che ha preso in considerazione questo problema fin da giugno, mandando in manutenzione le carrozze con i climatizzatori, come dire, a rischio, ritirando certo materiale. La stessa cosa non è stata assolutamente fatta dalla divisione lunga percorrenza. Io mi riferisco ai treni Intercity. I treni Intercity sono treni che scontano un peccato originale gravissimo, è materiale che ha più, in alcuni casi, a 40-45 anni. È materiale assolutamente inadeguato, di cui il Ministero dei Trasporti, che diciamo lo ha in carico, se ne sta disinteressando in una maniera scandalosa. Questo materiale per, diciamo, 15 giorni è stato ignorato il problema, nonostante nostre puntuali denunce e nostre puntuali proposte. Il materiale veniva consegnato ai binari dopo un'esposizione al sole di 7-8 ore, senza tende, con gli impianti di climatizzazione chiusa. Voleva dire salire su carrozze a 50 gradi. Ammesso che funzionassero i condizionatori, prima di un'ora, un'ora e mezza, non se ne avvertiva nemmeno. Non se ne sente certo l'effetto. Allora, abbiamo sì. avuto parecchi... Io immagino che la sua lista potrebbe continuare ancora a lungo. Detto questo, continuare ancora a lungo. Esatto. Un'ultima cosa che ci tengo a fare, l'unica cosa essenziale che chiediamo a Trenitalia immediatamente è l'assistenza. Loro parlano di migliaia di bottiglie d'acqua date, noi chiediamo che questa assistenza sia preventiva. Noi abbiamo visto migliaia di viaggiatori lasciati sotto le volte di Milano Centrale a 50 gradi perché il treno partiva in ritardo perché guasto. Assolutamente nel più completo disinteresse. Pretendiamo che per tutta l'estate, almeno nelle maggiori stazioni, l'assistenza sia preventiva, che Trenitalia si faccia cura dei clienti, soprattutto di chi ogni anno lascia 2-3 mila euro di abbonamenti, offrendo assistenza, offrendo bottiglie di acqua fresca prima del viaggio, perché credetemi, io vedo persone che piangono prima di salire certo. su un treno. Guardi Enrico, posso assicurare che siamo delle persone di mondo, io e Nicoletta ogni tanto si fa il viaggio verso Torino, a me per andare nelle Marche non lo faccio da molto tempo perché adesso uso prevalentemente l'auto e mi sono imbarcata in questo viaggio in autostrada venerdì scorso con i miei 40 gradi 38 perenni in macchina, per cui posso immaginare che cosa significhi farlo in treno tutti i giorni per un sacco di settimane. Allora effettivamente poi adesso racconteremo che cosa è successo in questa riunione d'emergenza di ieri. Trenitalia ha diramato nei giorni scorsi questo comunicato in cui ha detto di essere pienamente cosciente di quanto sta accadendo. Adesso vi racconteremo anche della questione toscana. Da inizio luglio la società ha fatto sapere di aver distribuito oltre 30.000 bottiglie d'acqua, 11.300 kit per colazione, pranzo e cena, garantito a viaggiatori che non potevano ultimare il viaggio in treno, 260 pernottamenti in hotel, 145 trasferimenti in taxi. Sul fronte emergenza caldo, dottor Iacono, io vorrei continuare a leggere, ma magari ci tiene lei a spiegarci quello che avete fatto in queste settimane, anche se appunto, come ha avuto modo di sentire da questa testimonianza, e non le dico quante ne stanno arrivando al nostro centralino, sembra tutto largamente insufficiente, perché effettivamente con 40 gradi è tutto... Non ce la si può fare. Sì, guardi, allora innanzitutto un buongiorno anche al dottor Enrico Pallavicini. Allora, sostanzialmente Ferrovie, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, io ovviamente lavoro in Trenitalia, ma siamo insieme che stiamo affrontando questa emergenza caldo già da giugno, da quando appunto è stata annunciata, perché questa eccezionale prolungata ondata di caldo torrido che sta attanagliando la penisola ovviamente si sta ripercuotendo sulla qualità del viaggio in treno. Noi siamo consapevoli di quello che sta succedendo, soprattutto siamo i primi a essere insoddisfatti. Il problema dell'aria condizionata, lo dico subito, è fortemente connesso all'età della flotta, partendo appunto dai treni intercity che appunto diceva dottor Pallavicini, lì sono dei treni che viaggiano, sono treni che sono ovviamente generati da un contratto con il MIT. In questo momento siamo senza contratto, gli investimenti in questo momento non siamo in grado di poterli fare perché, non avendo un contratto ed contratto in fase, molto probabilmente ci sarà una proroga, ma ancora una proroga di fatto non formalizzata, sarà fino al 2015, perché poi comunque, così come prevede le regole europee, Bruxelles, ci saranno delle procedure competitive e ci sarà una gara. Ecco, e quindi a quel punto non si può sostituire questa flotta, ma neanche fare un'adeguata manutenzione per rendere più vivibili queste carrozze. La manutenzione la stiamo facendo, ma molto probabilmente non è sufficiente tale da poter garantire un comfort così atteso dal cliente. Ma almeno sbloccate i finestrini, scusi, mi permetto. Esatto. È la questione preventiva di garantire quantomeno la distribuzione. Comunque le dico, proprio facciamo una riunione giornaliera per fare il punto, ieri ci siamo visti anche con i vertici, proprio per rinforzare rafforzare i presidi, per rinforzare l'assistenza, come diceva appunto giustamente Enrico Pallavicini, per rinforzare anche le nostre officine che nel weekend rimarranno aperte proprio per lavorare in maniera tale da poter restituire più treni pronti per i pendolari a partire da lunedì, questo anche nel mese di agosto. Certo. Inoltre, abbiamo anche previsto rinforzo di squadre di assistenza nelle stazioni principali, Milano Centrale è una di quelle, per poter proprio fare quello che appunto è stato detto da chi mi ha preceduto, per poter preparare le carrozze, per poter resettare i sistemi e gli impianti di climatizzazione di quelle carrozze che purtroppo sono più vecchie, perché il rinnovo della flotta non è stato consentito proprio dai contratti che sono scaduti, perché gli investimenti si fanno quando ci sono dei contratti, ma se gli contratti sono scaduti si fa fatica a fare un rinnovo della flotta. Ma ciò nonostante stiamo intervenendo con un raddoppio della manutenzione proprio in queste ore per poter consentire un viaggio il più gradevole possibile, abbassando ovviamente le tendine delle carrozze, potendo spostare il treno dalla zona di ricovero della stazione. Dottor Iacono, però io noi di partenza. Le diamo atto di questa serie di interventi che lei ci sta raccontando, dell'IRA, dell'amministratore delegato Elia, di cui abbiamo documentazione, che ci hanno raccontato, perché ieri era fuori di sé dalla rabbia per quello che è successo, che chiaramente non restituisce un'immagine di Trenitalia troppo vincente, soprattutto in un frangente come questo in cui ci aspettiamo per Expo tanti turisti che arriveranno, per cui il tema è che in ogni caso lei ci sta garantendo che arriveranno questa serie di interventi, verrà garantita manutenzione straordinaria in queste settimane, quando stiamo parlando di questo caldo torrido da almeno due settimane. Quindi è stata tutto sommato un po' sottovalutata questa emergenza, che appunto poi i meteorologi preannunciano. Sì, ma scusate, ma l'estate è una stagione in cui normalmente fa caldo. Ecco, ma questo è poi particolarmente caldo. Questo è un po' particolare, ma stare a 40 si rischia, ma stare anche a 35 o a 31, cioè non è che improvvisamente sono arrivati 40 gradi a Natale. Com'è possibile che succedano? In Toscana è stata veramente una situazione, ho trovato alcuni blog animati da alcuni comitati di pendolare, c'è questa situazione drammatica, la via Reggio-Firenze è stata veramente nei giorni passati il crocevia di una serie di situazioni insostenibili. Mi faccia completare, perché altrimenti, allora, quello che sta accadendo in Italia, innanzitutto un numero: noi stiamo cancellando il 3% dei treni previsti in orario. In Germania con la stessa ondata di caldo hanno soppresso il 20% dei treni. Questo sforzo forse pochi lo conoscono, ma noi lo conosciamo, perché ovviamente ci scambiamo le informazioni anche con le ferrovie che stanno al di là delle Alpi. Quindi, ripeto, questo per dimostrare l'impegno che c'è da parte dell'azienda. Le garantisco che noi non siamo partiti in ritardo, come gli diceva anche Pallavicini, per 9.000 treni al giorno che circolano sulla rete italiana. Abbiamo previsto già da tempo, da maggio, un'operazione preestiva che è già partita da tempo, ma l'ondata di caldo eccezionale che ha investito questa penisola con temperature o sopra i 40 gradi come valore percepito, perché non solo come corpo umano ma anche come treno, ovviamente oggettivamente queste temperature eccezionali hanno messo in difficoltà quella quota parte di flotta che è la più vecchia, perché un numero per tutti, abbiamo su 100 treni il 40% è nuovo, il 60% è vecchio, ma è vecchio perché purtroppo noi compriamo treni con investimenti in autofinanziamento a seguito di contratti, dove c'è un contratto che ti può generare investimenti lo facciamo. Vedi la Toscana, che è una delle regioni che sta investendo di più, è vero che abbiamo avuto una concentrazione di guasti, ma perché ci abbiamo ancora il 60% di carrozze vecchie, ma grazie alla regione con ulteriori investimenti di oltre 100 milioni si potrà fare una graduale sostituzione. Dottor Iacono, Io... si è veramente accalorato lei, quindi è andato proprio in crescendo la qualità del suo intervento. La ringrazio, adesso le chiedo un attimino di pausa perché sono indecisa se sentire Luigi Gabriele o un paio di ascoltatori. Luigi è un amico, aspetterà un attimo, gli faccio intanto mettere piede in cascina. Luigi Gabriele, buongiorno. Eccoci qua, codici. Salve, grazie. Ci supporta... mi piacerebbe molto intervenire il prima possibile che Iacono vada via, perché vorrei dirgli un paio di cose. Va bene, dai, via, allora via. Andiamo. Cioè... allora, Giorgia da Milano, Luigi da Napoli, li sentiamo dopo, avranno pazienza con di libro, aspettare. Dai. Con libro, regaliamo il libro pre-festivo, pre-vacanziero. Perché noi anticipiamo, esatto. Vedi? Luigi, via. Sì, allora, innanzitutto bisogna dire come stanno le cose in realtà. In inverno c'è la neve, in autunno ci sono le foglie, in primavera ci sono sbocciano i peschi in fiore. Ok, è possibile che ogni stagione i treni di Trenitalia, tranne l'alta velocità, sia se intercity, quindi con contratto ministeriale, sia se interregionale e se regionale, quindi con contratti regionali, hanno tutti questi problemi? Poi vorrei ricordare che... carrozze meteoropatiche. Sì, sono estremamente meteoropatiche e ci dovrebbe dire una volta per tutto un'azienda che comunque in gran parte... interamente ancora pubblica, che ha una società di controllo della rete interamente pubblica, com'è possibile che non vanno d'accordo due ministeri, il proprietario, quello delle finanze, e invece il gestore, quello dei trasporti, e non riescono a fare una programmazione degna di un paese adesso civile. Magari il povero Iacono non lo saprà, neanche quello che noi dicevamo a microfoni spenti con Nicoletta, è che un pochino magari anche questa qualità del servizio, che ancora su molte tratte è estremamente discutibile, fa a pugni con il costo di certi biglietti che sta diventando un po' troppo alto anche per tutti i pendolari, anche se fanno gli abbonamenti straconvenienti in realtà, no? Gabriele, ci aggiungo questa postilla io. No, ma è proprio così, perché Iacono continua a dire che se non hanno contratti non fanno investimenti, ma noi ricordiamo innanzitutto che i contratti ce l'hanno dal 1889, da quando è stata fatta la prima rete ferroviaria e l'ha sempre gestita Trenitalia, e poi che i biglietti che pagano i consumatori sono tarati appunto su delle previsioni di bilancio che loro fanno, che dovrebbero contenere di anno in anno degli investimenti che dovrebbero fare, e invece vediamo che sull'alta velocità, che è sempre stata comunque finanziata interamente dai consumatori italiani, viaggiano ad alta velocità, mentre su tutto il resto siamo trattati come se fossero dei carri di bestiame, perché al di là dei casi singoli che sono successi in questi giorni per il caldo, ricordiamo che in inverno i treni si fermano perché c'è la neve e che gran parte delle tratte, soprattutto quelle intercity, in quest'anno erano state riviste. Io ricordo che ci sono stati dei colleghi che avevano fortemente protestato perché una ventina di treni intercity, che non più economicamente profittevoli per Trenitalia, erano stati addirittura cancellati, questo per spostare poi il traffico sull'alta velocità. Io vedo che c'è una grande ipocrisia da parte di questa azienda, che pretende di avere soldi che già ne ha sufficienza e ogni volta dare delle spiegazioni a degli investimenti che non fa. Insomma, stamattina abbiamo beccato un tema appunto caldo. Adesso abbiamo fatto arricchire ad Orazio Iacono il dossier delle associazioni dei consumatori, sentiremo punto per punto che cosa risponde, ma soprattutto io vorrei anche capire se possiamo in qualche maniera confortare i viaggiatori con possibili iniziative, a prescindere dall'acqua che è stata distribuita, dai kit per la colazione, dai pernottamenti che sono stati garantiti a chi ha avuto i disagi maggiori e magari ha perso coincidenze anche con aerei, perché no, perché poi le ricadute sono tante, se magari in questo caso è possibile anche parlare per qualcuno che ha subito dei disagi particolarmente forti, come malori e ricorsi anche a pronto soccorso, che ne so, degli indennizzi, dei risarcimenti, non lo so, adesso ci pensiamo, intanto sentiamo i nostri mercati, poi quando ritorniamo vado subito ad altre testimonianze. Giorgia, Luigi, ancora un minutino di pazienza, i mercati li faccio brevissimi. Cuore e denari. Ascoltare tutta? Mi piacerebbe. La grande Antonella Ruggero, infatti. Magnifica voce. Sì. E poi una canzone che ci porta alle vacanze, almeno nel titolo, vacanze romane, chissà. C'è chi le sta sfiorando quasi con un dito, guardo qualcuno. Sì, e chi invece caso. Solo col pensiero. Dai, una cosa dai. È certa, ne avremo tutti bisogno. Sono passati quasi 12 mesi dalle ultime ferie e li sentiamo tutti. A un anno è lungo e può essere particolarmente pesante e impegnativo. A questo si somma il caldo e quando funziona l'aria condizionata che ci dà sollievo. Non voglio essere polemica, ma poi ci bastona. Risultato: tensioni dolorose, ma non parlo solo di muscoli e articolazioni, ma anche di irritabilità, di impazienza. I nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo dei loro viaggi in treno raccontano un po' questo disagio. Il nostro corpo e la nostra mente ci stanno dicendo che siamo arrivati al capolinea e dobbiamo fare il rifornimento, ed è quello che faremo con il nostro ospite. Oggi tornerà a trovarci, devo dire proprio a grande richiesta, il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale, che ci insegnerà a prenderci cura di noi. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Forse pedalare può essere sopportabile anche sotto il sole in questi giorni, non certo viaggiare in treno su una carrozza priva di aria condizionata e magari anche in ritardo. Stiamo un po' facendo il punto della situazione sui tantissimi disagi che si sono manifestati nelle ultime settimane, ne hanno subito le conseguenze soprattutto i pendolari fissi che devono raggiungere ogni giorno delle località di lavoro dalla propria città e che hanno in questi giorni ovviamente avuto la disavventura di capitare in questi treni in cui l'aria condizionata non è funzionata, una situazione che si è verificata soprattutto per tutta una serie di intercity, flotte vecchie, si giustifica appunto Trenitalia, per le quali non è possibile fare delle sostituzioni perché mancano dei contratti. Ho sintetizzato molto quello che è stato detto all'inizio della trasmissione, ma a parte questo c'è tutta una serie di richieste che comunque fanno le associazioni dei consumatori che abbiamo interpellato, e allora darei anche la parola agli ascoltatori che poi vivono sul campo questi disagi. Peraltro c'è chi dice che ovviamente oltre al caldo torrido quando l'aria condizionata non funziona, al contrario poi quando questa viene accesa e funziona si passa direttamente al congelamento, 40 gradi fuori, insomma, e dentro 10 non va bene mai niente. Giustamente, effettivamente bisognerebbe che tutto fosse un po' nell'equilibrio, no? Nella situazione di mezzo. Detto questo, avevamo degli ascoltatori pronti ad intervenire, poi concludiamo con Orazio Iacono, direttore trasporto regionale di Trenitalia, e Luigi Gabriele dell'associazione dei consumatori Codici. Giorgia da Milano, l'abbiamo fatta aspettare un po', ci no, dica. Non vi preoccupate, buongiorno a tutti voi. Cosa le è successo? Allora, niente, il 17 luglio io ero giù a Foggia e ho preso un Freccia Bianca direzione Milano. Dopo, fantastico, a parte l'ora di ritardo, che quella non fa niente, l'importante è essere arrivati vivi. E dopo una mezz'oretta mi sono resa conto che faceva molto caldo. Ho chiesto al capotreno e mi ha detto, in modo anche abbastanza acido, che più di così l'aria condizionata non andava. Allora mi sono spostata in un'altra carrozza dove mi sembrava ci fosse un po' più di aria. Sono passata a controllare il biglietto, ho ripetuto la stessa cosa e la signora gentilmente mi ha detto, guarda, più di così non funziona, però se vai nell'ultima carrozza dove non c'è bisogno della prenotazione per il posto, lì funziona un po' meglio. Allora mi sono fatta 10 km di treno fino al fondo, visto che ero alla seconda carrozza, e mi sono seduta lì 10 minuti e ho detto, qua forse si respira un po' meglio. Non avessi mai detto. Anche lì è arrivata l'ondata di caldo. Si senta completamente l'aria condizionata. Ecco, doveva non fare questo pensiero positivo, Giorgia, perché ha avuto l'effetto contrario. No, adesso, a parte questo, poi stavo pensando, in questo caso, Giorgia, il treno aveva delle disponibilità di posti, si è potuta spostare. Immaginate quando, nei prossimi giorni, con la partenza di tutti, saranno strapieni questi vagoni. Certo. Nessuno potrà spostarsi e quindi se si dovesse riverificare questa situazione di caldo bollente. Senta, Giorgia, ha chiesto qualche indennizzo, quantomeno per l'ora di ritardo? No, non l'ho chiesto, perché quando sono poi scesa, bisognava fermarsi poi in stazione a farlo, quando sono scesa ero devastata con i piedi gonfi, cosa che non mi era mai successa in vita mia. Ha tirato poi sulle gambe una volta a casa, scusi, mi faccio un po' i fatti suoi. Diciamo che ho collassato proprio una volta arrivata a casa. Quello che voglio dire però, in tutto il viaggio non si è mai visto nessuno passare a chiedere state bene, state male. E solo alla fermata di Rogoredo, cioè a 10 minuti da Milano Centrale, sono venuti ad aprire i finestrini quelli bloccati. Ecco. Giorgia, grazie. Grazie. Grazie a voi. Intanto Giorgia le arriva un libro. Certo, viaggiare felici e contenti, lo scriviamo noi adesso nelle prossime due ore. No, le avevamo proposto il libro, ti ricordi? Sì, sì, sì, certo. Se ne troviamo qualcuno su viaggiare in serenità. Luigi da Napoli, benvenuto anche a lei, rapidissimo. Le chiedo, poi vado alle conclusioni. Sì. Sì, no, volevo solo dire che per me io dovessi prendere di nuovo il treno o alta velocità o niente. Io ho preso un Napoli-Torino venerdì notte, è partito alle 21:45, è arrivato in orario per fortuna, ma un viaggio, mamma mia, le carrozze vecchie di quando ero piccolo. Di quando ero piccolo è bellissima. Sì, sì, io ho 51 anni, sono uguale, hanno cambiato solo la tappezzeria. Poi ci sono questi poggiatesta che tanti anni fa erano bianchi e tu comunque la testa la devi appoggiare, non puoi stare tutta la notte così. Vabbè. I bagni non ne parliamo, puzzano, non si chiudono le porte, una mano devi mantenere la porta, con l'altra devi cercare. Quanto ho pagato? Mi scusi, faccio la donna di denari. Quello volevo dire, io ho pagato il Napoli-Torino 65 euro, invece con 40 euro in più ho preso al ritorno il Frecciarossa 1000. La qualità del viaggio è stata decisamente diversa. Non c'è paragone, per carità. Grazie. Allora, dottor Iacono, mi mancano 3 minuti di tempo prima di consegnare la linea all'amica Nicoletta. Le lascio tutta la disponibilità del mondo, appunto, ne approfitti di questi minuti che rispondiamo. Grazie appunto a quello che è stato detto, anche perché così ci dà la possibilità di poter dare qualche informazione. Innanzitutto voglio dire che non è ammissibile quello che è successo in questi giorni e siamo fortemente orientati a soddisfare i nostri passeggeri, sia quelli dei treni regionali sia quelli dei treni a lunga percorrenza, cominciando dagli intercity. Quindi il nostro cliente deve viaggiare in orario e deve viaggiare in comfort, cominciare dall'aria condizionata. Peraltro devo dire che per quel signor Giorgio, appunto, che si trovava sul Frecciabianca, che è un treno che non lo lega con il contratto, perché è un treno a mercato, per cui questa responsabilità tutta dell'impresa di trasporto, su cui oggettivamente abbiamo avuto un aumento di in questo mese di guasti, e è proprio per questo che stiamo raddoppiando la capacità manutentiva per evitare ripetersi di fatti simili. Però per quei fatti, per quegli episodi spiacevoli, c'è previsto un bonus che vale il 25%, e in alcuni casi per quei passeggeri che hanno subito dei disagi maggiori, gravi, arriviamo anche al 50% di bonus. Per quanto riguarda le azioni che abbiamo attivato e che stiamo rafforzando, sono innanzitutto una sala crisi, una unità di crisi attiva H24 per seguire istante per istante la marcia dei nostri 9.000 treni al giorno, con anche delle sale operative attive in tutte le regioni del nostro paese. Inoltre abbiamo raddoppiato la capacità manutentiva per gli impianti di climatizzazione, abbiamo aperto nel weekend, anche adesso prossimo e anche nel mese di agosto, i nostri impianti di manutenzione, proprio per garantire maggior ore di manutenzione finalizzate appunto agli impianti di climatizzazione, ed abbiamo attivato anche dei presidi di assistenza preventivi, come giustamente è stato ricordato anche prima, proprio per evitare di lasciare la gente sotto il sole oppure nelle carrozze dove la temperatura è sicuramente superano certi valori, e garantendo quindi una partenza il più possibile puntuale, ma soprattutto in condizioni climatizzate, anche fino ad arrivare a delle appunto cancellazioni, quindi a delle alternative per evitare appunto di far viaggiare i nostri passeggeri su delle carrozze dove non c'è comfort. Dottor, abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione. Prendiamo atto di tutte queste rassicurazioni che lei ha voluto fornirci. Prendiamo atto della riunione d'emergenza che ha organizzato ieri il vostro amministratore delegato, sbraitando anche parecchio, perché appunto effettivamente queste situazioni non sono ammissibili, soprattutto quando si perpetuano, no? Quando si procrastinano, perché sta bene che si verificano per due giorni in un'emergenza, poi quanto diceva, 9.000 treni da controllare ogni giorno su tutta Italia, ci rendiamo conto che i numeri sono tanti, nelle prossime settimane la gente che circolerà sarà veramente moltissima, e detto questo verificheremo con le associazioni dei consumatori se altri disagi si verificheranno e se tutte queste promesse sono state mantenute, e soprattutto siamo curiosi appunto di sapere come funzionerà questa unità di crisi permanente H24, la chiamano, insomma c'è tutto questo che si sta mettendo in moto, quindi anche che i consumatori siano informati di tutto ciò. Radio 24 ci prova, vedremo nelle prossime settimane, no? Grazie a Orazio Iacono, a Luigi Gabriele per essere stati con noi, a tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato tantissime testimonianze. Se volete scriveteci, anche noi faremo il nostro piccolo dossier da girare a Ferrovie dello Stato. Mi piace. Adesso traffico, giustamente, vogliamo non sentire il traffico? Sentiamolo. Cuore e denari. Operazione vacanze. Diamo inizio alle danze. Salsa, merengue e latino. Oh oh oh, col gioco aperitivo. Oh oh oh, e quando è l'ora del tè. Allora, eccoci pronti per la seconda parte di Cuore Denari. Spero abbiate le mani libere per chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, ma anche e soprattutto per seguire tutti gli esercizi che ci suggerirà oggi il nostro esperto, che a grande richiesta è tornato a trovarci. Diamo il buongiorno al professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale a Lugano. Buongiorno professore. Ma buongiorno a voi. Lei non ha viaggiato in treno perché è tutto bello fresco, hai visto? Bello freschino, sì sì. Allora, assolutamente no, oggi no. Professor Di Pietro, c'è un punto per incollare i nostri ascoltatori a Cuore Denari, dato che parliamo sempre di punti magici? Ah, assolutamente sì, oggi sì, perché quando poi si viaggia tanto, soprattutto quando ci sono questi sbalzi di umidità molto forti, oltre che di temperatura, e i muscoli si bloccano, i primi che sentiamo sono i muscoli del collo, quindi la cervicale, e ho preparato due punti particolarissimi e facili oggi. È molto facile, 800 24 00 24 è il nostro numero verde, è già a vostra disposizione, così come il numero per inviare i messaggi al 349-238-6666. Professor Di Pietro, in sua assenza io ho fatto una promessa, ho detto che lei ci avrebbe insegnato ad allentare le tensioni di ogni genere, tipo e natura, quindi non solo quelle articolari e muscolari, spesso dovute alla nostra postura, ma anche quelle che derivano da quella che possiamo chiamare postura emotiva. Sì, che è sì. Il modo in cui affrontiamo e ci muoviamo nella vita. Non so se ci piace questa nuova modo di definirla, ma in effetti lo sappiamo, certo, bene che il nostro umore condiziona anche, sì, quello che sentiamo, certo, dentro, condiziona anche quello che ci riveste e ci contiene. Assolutamente sì, il nostro corpo è la vittima delle nostre emozioni da un certo punto di vista, ma è capace anche poi di coccolarci bene da questo punto di vista. Ogni volta che noi abbiamo delle emozioni molto forti, il nostro corpo si deve adeguare, si adegua per tanti motivi, chimici, fisici, eccetera, perché magari i nostri ormoni iniziano a essere alterati e soprattutto... Se si alterano oltre che i pendolari anche gli ormoni, Deborah, ma qua non... Addio! Trasmissione un po' maliziosa voi due, È colpa dei treni, dell'aria condizionata. Colpa delle vacanze che stanno arrivando, guardi, abbiamo già mollato il cervello. Professor Di Pietro, sì, ci aiuti allora a capire come possiamo riconoscere e differenziare le tensioni provocate da posture non corrette da quelle invece generate da chiusure, problemi di natura emotiva, lei ha aggiunto anche ormonale. Noi, faccio un esempio per spiegarmi meglio, no? Tutti, sì, sappiamo che quando siamo stressati, preoccupati, tesi, il nostro respiro si fa corto, diventa superficiale, si ferma, no? In alto al torace, sì, i nostri muscoli quindi si contraggono, fanno il loro lavoro, si irrigidiscono, ormai siamo diventati bravissimi a riconoscere con un colpo d'occhio la persona stressata, perché ci guardiamo anche davanti, sì, ogni tanto tanto allo specchio. Certo. Insomma, giorno dopo giorno questa condizione ci rende rigidi, dolenti, ci fa assumere posizioni che non fanno che peggiorare la situazione. Abbiamo definito queste tensioni da postura emotiva. Sì. Poi è diverso il peso invece che avvertiamo magari a livello della schiena, quella in basso, quando ci alziamo. Certo. Provate a farlo se siete seduti e raccontateci, fateci una radiocronaca della quando provate ad alzarvi oppure uscite dalla macchina dopo ore e ore di... quindi professor Di Pietro, tanti disagi con cause diverse, riusciamo a fare un distinguo? Ma certo, perché apparentemente è tutto uguale. Il paziente dice ho mal di schiena, zona lombare, zona dorsale o cervicale. Le cause che provano questo sono veramente tante, come stavi giustamente dicendo. Pensiamo e distinguiamole, quelle emozionali possiamo, se vogliamo, vederle anche nel caso delle emozioni, di che emozioni parliamo. Per esempio, quando siamo stressati, ma lo stress è ancora molto generico, quando sentiamo il peso del mondo, quando sentiamo il peso della nostra vita, quando sentiamo qualcosa che ci schiaccia, per esempio, può schiacciarci sul petto o può schiacciarci sulle spalle. Sulle spalle sono tutte quelle emozioni che noi abbiamo come zaino, che ci portiamo dietro, che ogni tanto dovremmo prendere, riporre in un cassetto e cominciare a uscire senza questi pesi sulle spalle. Queste sono le emozioni che ci danno il dolore nella zona dorsale cervicale. Voi sicuramente i vostri amici li vedete, no? E quando li vedete ogni mattina o ogni quando comunque appunto li vedete, avete immediatamente, dite ah come ti vedo bene oggi, oppure se è un vero amico gli dite quello che pensate, oggi ti vedo un po' triste, un po'... Osservate la loro postura, vi accorgerete già da quello se c'è qualcosa che li preoccupa o no. Quindi c'è una preoccupazione che arriva sulle spalle, quindi è un peso che noi dovremmo toglierci, oppure c'è qualcosa, come dicevi tu prima, che ci toglie il fiato, ci blocca sul petto, qualcosa che noi dobbiamo affrontare davanti a noi, ma pesa più di quello che noi pensiamo di poter sopportare. Diversamente invece sono quelle che sono le algie, quindi i dolori della schiena dovuti al fatto che magari siamo seduti male, come noi adesso tutti quanti. Perché siamo seduti male? In realtà perché le sedie sono uguali per tutti, e questo posso capire perché l'industria altrimenti quanto costerebbero, ma noi siamo tutti diversi. Non siamo diversi soltanto uno dall'altro, ma siamo diversi da noi stessi rispetto a ieri o l'altro ieri, perché abbiamo mangiato un po' di più ieri sera, abbiamo mangiato un po' di meno, siamo più disidratati, abbiamo dormito male perché il condizionatore non funzionava, e quindi noi dobbiamo con il nostro corpo adeguarci a ciò che dovrebbe aiutare il nostro corpo, come la nostra sedia, il banco scuola per i ragazzi. È come se tutti dovessero portare la stessa scarpa. Esattamente. Ad alcuni andrà stretta, ad alcuni larga. E c'è anche un altro dettaglio che mi piacerebbe aggiungere. Lo stesso stimolo su persone diverse potrebbe avere un effetto diverso. Debora ci ha parlato dell'aria condizionata nei treni, no? Che non funziona. E quando funziona, funziona troppo. Ma anche quando funziona per alcuni ha l'effetto di una spada. Ne abbiamo parlato proprio di recente con lei, il colpo dell'aria condizionata, che è un po' un'alternativa a quella della strega. Per altri invece l'aria condizionata, anche sparata al massimo, non produce alcun effetto collaterale se non quello piacevole di rinfrescare. Quindi ci sono, professor Di Pietro, tipi e tipi, tipologie. Certo. Per fortuna proviamo, meno male che siamo tutti diversi, proviamo, ci aiuta a profilare magari qualche identikit in modo che i nostri ascoltatori possano riconoscersi magari. Certo. Ognuno di noi ha una storia, ma anche ogni corpo ha una storia. Ha una storia da un punto di vista interno ed esterno. Gli insulti che un corpo riceve nel corso della vita sono tanti. Ci sono persone che hanno fatto magari molti sport pesanti per tanto tempo, eccetera, che hanno quindi un corpo che ha sopportato tanti pesi più soprattutto eccessivi rispetto a quello che potevano. Ci sono anche persone che dall'interno iniziano a soffrire, non solo da un punto di vista emotivo. Sì. Parliamo degli ormoni prima. Per esempio, c'è una ghiandola che è la tiroide, che è importantissima. È sempre un po' come il prezzemolo, professor Di Pietro. Tutti la nominano. Assolutamente, che poi gli endocrinologi magari ci spiegheranno meglio perché. Però rimane il fatto che la tiroide ci permette di sentire più caldo, più freddo. Un ipotiroideo, cioè una persona a cui la tiroide non funziona proprio tantissimo, sente ed avverte il caldo diversamente da una persona ipertiroidea. O con una tiroide che funziona normalmente. Ecco, perché ogni tanto funziona anche normalmente. Certo. Esatto, invece facciamo le a separazioni volte, sì. Ma sono quelli che non si lamentano sul treno quando c'è l'aria condizionata normale. Lei ha un punto, non so sì. se abbiamo, non abbiamo tempo, 10 secondi, ci suggerirà poi un punto magico quando siamo in treno con l'aria condizionata che non funziona e ci stiamo sciogliendo, perché noi non lo sappiamo, ma con il biglietto sì. del treno, forse in questo periodo stiamo comprando anche la un biglietto per la sauna, quindi le ferrovie ci stanno facendo un regalino. Noi povero andiamo Iaco, a sentire no? il nostro GR, intanto 800 24 00 24, lamentatevi con noi, troveremo delle soluzioni. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7.10 del mattino qui a Radio 24. Cuore e denari. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Puntata dedicata al viaggio, Deborah. Eh sì, tra chi stava praticamente un po' cuocendo come una bella bistecca nelle ferrovie. Viaggi caldi o frescolini, però si può affrontare un viaggio non solo per piacere, l'abbiamo detto, ma anche per dovere. Lo dico a chi non partirà per questo weekend e non ha in programma di andare in vacanza a breve. Smettila, ma me le merito, sai, le ferie che prendo? No. Io guarda, sono felice perché è come se tu ci portassi un po' in vacanza con te, perché so che ci manderai anche delle belle foto. Certamente. Comunque, lo sappiamo bene, si possono passare ore e ore in macchina, anche per andare in ufficio e per tornare a casa dall'ufficio, o in treno con o senza l'aria condizionata. In treno, in macchina, per piacere o per dovere, ma anche in moto, in bici, a piedi. Qual è il vostro mezzo di locomozione preferito? 800 24 00 24. Ne stiamo parlando oggi col professor Di Pietro, osteopata, per darvi buoni consigli per prevenire e anche per allentare, per spegnere, per sbloccare alcune situazioni che per una serie di ragioni, ne abbiamo descritte alcune, possono essere le posture emotive, problemi ormonali, anche modi inadeguati in cui magari presi dall'entusiasmo riprendiamo a fare attività sportiva, è un classico, certo. No? Iniziano le vacanze, uno dice sai cosa ti dico? Vado con il mio amico a farmi una partita di tennis, bam, bloccato per tutte le ferie. 800 24 00 24, raccontateci i vostri acciacchi, ma diteci anche che cosa e come sentite il vostro corpo, se si tende, se avvertite, come ci scrive Marta, delle correlazioni, una relazione tra causa ed effetto, come Marta ci dice, conferma l'importanza dell'effetto degli ormoni sullo stato psicofisico ed emozionale. Ho avuto problemi di ormoni e mi sono sentita veramente male anche nell'ambito del funzionamento del corpo, inteso come muscoli e dell'energia. Professor Di Pietro, eccomi. Quale sarebbe la telefonata che le piacerebbe ricevere quando lei arriva qua? Sì. Io so che magari lei vuole mi facessero comunque quella domanda, ecco, aiutare qualcuno, insegnare quelli che noi abbiamo chiamato un po' i punti magici. Quale sarebbe lo stimolo che vorrebbe ricevere dal nostro ascoltatore ideale? Allora, adesso sembra che dia una risposta sviolinante, invece no, tutte le domande sono belle. In realtà che cosa mi piace, perché ho scelto poi questa professione? Perché, come tante persone che stanno ascoltando, mi dà molto aiutare gli altri. Cioè, quando riesco ad aiutare una persona, sto meglio io. Per cui ho scelto questa professione, come tanti altri, ma al di là che poi sia una professione sanitaria piuttosto che un avvocato, piuttosto che un'altra cosa. Poter aiutare gli altri è forse la cosa che paga di più, e vi dirò che il miglior pagamento che si ha da un paziente quando esce, al di là della fattura che poi serve anche per poter vivere, pagare tutto, le tasse soprattutto, per continuare ad aiutare tutti gli altri, il miglior pagamento è il sorriso del paziente quando scende dal lettino. Ecco, sì. Ma non ti ricordi quando mi ha sistemato questa spalla, come era contento lui? Sì, tu al momento hai fatto Sì, perché oggettivamente non me l'aspettavo, ma sono stata rimessa a nuovo in un secondo. Allora, vediamo di rimettere a nuovo i nostri ascoltatori. Ottimo. 800 24 00 24, se volete farvi mettere a nuovo anche voi. Roberto, buongiorno, ci chiama da Parma, benvenuto. Buongiorno, io ho un problema in convivenza all'interno delle strutture. Io frequento un paio di palestre e mi un paio di due, sì, perché una non mi basta, sono appassionato di fitness e mi capita con l'arrivo dell'estate di confrontarmi spesso con i partecipanti appunto di queste lezioni che vengono fatte nelle palestre, dove va a finire che la temperatura che viene scelta non è quella indicata, più normale, più piacevole, ma quella a grande maggioranza. Perciò trovo delle ragazze che saltellano piacevolmente per un'ora, che hanno la pretesa di fare delle lezioni da aerobica a 17 gradi, così non sudano tanto, magari così riescono a non fare la doccia. Chiedevo se ciò... Che brutto! Io Roberto, non comprendo bene i loro fidanzati. No. Vorrei conoscere. Nella mia palestra non succede, noi ce la facciamo tutti. Chiedevo, c'è una temperatura che io posso richiedere a una disposizione dell'USL che possa far sì che io non abbia contratto? Questa mi sembra una domanda che sia un po' da rivolgere al professor Di Pietro. Se vuole poi faremo una ricerca al momento sulla temperatura che è stabilita per regolamento nelle palestre, perché lei l'avverte poi a livello, questo potremmo, diciamo che la temperatura non accontenta mai nessuno, perché proprio per le questioni che dicevamo prima, no? Però questo il problema suo, Roberto, è che questa temperatura che non è consona secondo lei all'ambiente provoca in lei tensioni, dolori, il colpo dell'aria condizionata? E problemi alla schiena, che vedo che in altri momenti dell'anno sono meno frequenti. O va a fare ginnastica in treno, una terza palestra oppure in treno, tanto che così il colpo d'aria non lo prende. Comunque, oppure professor Di Pietro, magari certo, non so. L'ideale sia sempre non pensare solo alla temperatura, perché noi quando pensiamo di voler star bene pensiamo a quello, in realtà è un po' più complesso, perché dobbiamo pensare sia alla temperatura che all'umidità, e non solo questo, ma come l'aria si muove all'interno di ciò che noi stiamo raffreddando e riscaldando, perché la stessa cosa poi vale anche d'inverno. Per rendere gradevole e soprattutto proficuo stare all'interno di queste strutture, dobbiamo considerare che il muscolo ha bisogno di scaldarsi. Nel momento in cui io vado in un ambiente in cui il muscolo fa fatica a scaldarsi, sto facendo del male ai miei muscoli. Il muscolo ha bisogno di magnesio. Questo è il messaggio per le ragazze che vogliono fare aerobica a 17 gradi, dice, per non farsi la doccia con grande dispiacere. Ecco. Anche perché quando ci sono poi 17 gradi fuori e queste ragazze vanno a correre, probabilmente si copriranno talmente tanto da non poter poi voler sentire quindi più freddo. Quindi il muscolo ha bisogno di riscaldarsi, per questo è consigliato sempre un po' lo stretching. Ma per chi ha questo problema, appena si raffredda, o facendo attività sportiva, o perché entra in un ambiente un pochino più, anche solamente adesso andando a fare shopping per i saldi, entri in questi grandi magazzini che sono veramente dei frigoriferi. Ecco, poveri, allora, muscoli, poveri che muscoli. Che cosa si può fare? I muscoli che di solito fanno più male sono i muscoli del collo, quelli che sentiamo subito, che il resto del corpo è coperto, o in subordine quelli dell'addome, e lì poi abbiamo o la tipica mini congestione, inizio a sentire dei dolori pazzeschi che si possono riflettere sulla zona lombare. La prima cosa da fare è, entrando in questi luoghi, avere il buon senso, ma come ogni cosa della vita, sembra di dire delle cose scontate, ma forse ripetiamo, forse ci scriverà Rita. Perché noi abbiamo un'ascoltatrice che appena dici delle cose normali ci scrive Rita. E allora questo è il maglioncino della Nico, io me lo porto sempre, un piccolo maglioncino in borsa. Conviene sempre comunque non far arrivare sulla muscolatura la muscolatura dell'addome, perché la muscolatura dell'addome è una muscolatura molto particolare, completamente diversa dal resto della muscolatura. Si chiama infatti muscolatura involontaria o muscolatura liscia, cioè è una muscolatura che noi non possiamo poi controllare più di tanto, per cui quando prende tanto freddo non siamo in grado di scaldarla, se non scaldarla fisicamente mettendo, appunto, coprendoci, cercando di massaggiarla un pochino. Quindi ho la panzetta perché è troppo freddo qua dentro, ma Di Pietro mi sta dicendo non è pancetta, colpa della mandibola, voi non la vedete, non ha la pancetta. Quindi la pancia è un sappiamo. Mentre invece per i muscoli della cervicale qualcosa possiamo fare. Lei ha preparato infatti due esercizi e lì ci porta, andiamo allora. Ve li spiego? Sì. Allora, ci sono due punti che dovete schiacciare per liberare la vostra colonna cervicale. Se avete preso freddo, state guidando soprattutto, eccetera, provate a ruotare, no, se state guidando fermatevi, certo, per carità di Dio. Se avete finito adesso di guidare, provate a ruotare verso destra, verso sinistra, verso l'alto, verso il basso, e cercate dov'è il punto che blocca un pochino il collo, se c'è. Se c'è, con due punti adesso vediamo di aiutarvi, almeno aiutare il più possibile le persone. Portate le dita dietro la colonna cervicale e scendete sulla colonna cervicale fino dove incontra le spalle. Sì. Ok? Ok, siete vicino quindi a questo punto alla colonna cervicale, non sopra, di fianco, sentite come due piccoli avvallamenti, due piccole fossettine. Se siete riusciti a sentirle, senza pietà, prendete il dito, il polpastrello, se non avete le unghie, o la nocca, esatto, del dito se avete le unghie. Mi stavo conficcando le unghie nella pelle, infatti. E schiacciate senza pietà per 3 secondi. Senza pietà. Dopodiché allentate e lo rifate ancora 2 volte. Io qua c'ho proprio a questo punto dovreste rifate la rotazione e dovrebbe essersi liberato il collo. Non siete guariti, ho solo fatto arrivare in qualche modo empirico un pochino di sangue in più in quella zona. Per cui zona. Ruotando, la prova è che ruotando gira anche un po' la testa, quasi, possibile? Oh, sì, è possibile, è arrivato di colpo un po'. Enrico, di lei l'ha fatto questo esercizio? Buongiorno. Allora, no, perché non aveva le mani libere, doveva stare al telefono con noi. Sì, ero lì pronto. Enrico, allora che ci racconti? Lei? Carissime compagne delle mie piacevoli mattinate con voi a Radio 24. Carissimo Enrico. 2 libri, un'adozione sul campo. E una foto mia di Deborah, la maglietta, che lo portiamo in vacanza con noi. Ma guarda qua, proprio Enrico. Top. Siete bravissime, complimenti. Grazie Enrico, ci racconti, ci dica lei. Allora, dunque, io ho 58 anni, quindi vengo da esperienze varie di colpi di strega, eccetera, eccetera. Quindi cosa ho capito? Alla fine sono arrivato al punto. Qual è? Il problema qual è? Che, come bene il dottore sa bene di me, saluto. Salve. C'è un problema di perdita di tono dei muscoli. Quindi il modo migliore è far riacquistare questo tono, sia addominali, pelvici che della schiena. Certo. Quindi perché allora viene la pancetta e viene proprio perché si allentano questi muscoli. Quindi lei, Enrico dice, bisogna lavorare. È una delle cause, ma ha ragione. Cioè, noi stiamo in piedi non per le ossa ma per i muscoli. Questo è ovvio, ovviamente anche per le ossa, ma sono i muscoli che poi decidono di farci prendere una posizione piuttosto che un'altra. E soprattutto ogni muscolo ha il suo antagonista. Per esempio, quando noi pensiamo alla muscolatura del cervicale, non pensiamo mai di far lavorare l'antagonista, che è nella parte anteriore, che sono tutti quei muscoli. Se provate a mettervi davanti a uno specchio, anche lo specchietto retrovisore, se non state guidando, spalancate la bocca più che potete, ma proprio con tanta forza, vi accorgerete di quanti muscoli lavorano fino alle clavicole. Vedete? Che spettacolo tutto che c'è qua il dentro. Collo, guardate quanti ce n'è, proprio una raggiera che serve solo a fare aprire la bocca. In realtà apparentemente serve solo a quello, ma è l'antagonista di tutti i muscoli che abbiamo sul collo. Quindi ha ragione quando dice che i muscoli vanno sempre tenuti in tono. Bisogna sapere quali. State attenti, se volete lavorare molto per la muscolatura appunto cervicale, di far lavorare anche questi davanti. Un ascoltatore al 349-238-6666 ci chiede un aiuto per quella che definisce sindrome del cambio materasso. Dato che per lavoro deve dormire spesso in diversi posti, si accentua questo dolore lombare con la corsa, così diamo anche delle info ai nostri ascoltatori runner, che fa tempo libero, e recentemente ha trovato sollievo con punture di ozono da uno specialista. Allora qua è proprio il classico, ci alziamo dal letto e avvertiamo questa zona nella fascia lombare. cambiare, diamo spesso la colpa al materasso. Il nostro ascoltatore dice: io lo cambio spesso, certo. E quindi può essere. Allora, non tutte le persone che cambiano spesso il materasso hanno questo problema. Certo. Evidentemente è la caratteristica del corpo del paziente, del nostro ascoltatore che ci ha chiamato. Che cos'è che provoca il dolore? Volendo, che cos'è il dolore? Il dolore è una trasmissione sui nervi di un impulso elettrico che viene anomala, cioè nel senso che c'è una piccola riduzione del ritorno della corrente sul nervo. Vabbè, il dolore lo sappiamo tutti cos'è, perché l'abbiamo provato, adesso al di là di che cos'è tecnicamente. Vuol dire che c'è qualcosa all'interno del corpo che quando esteso altera la corretta postura e schiaccia qualche nervo da qualche parte. Allora, se ci sono delle protusioni, delle ernie, certo. Vada ovviamente dall'ortopedico, dal fisiatra o dal neurochirurgo. Quando invece queste non sono presenti o sono troppo piccole per poter creare questo problema, allora andiamo a capire che cos'è. Quali sono le forze che quando siamo stesi danno questo problema? Sono due fondamentalmente. Una, arrivano dal cranio, solitamente sono i denti. Quindi se noi digrignamo molto i denti durante la notte, serriamo i denti e non sono a posto, mandano in torsione la colonna. Ce ne accorgiamo quando? Quando ci fa male la spalla e magari poi facciamo l'ecografia e non c'è niente. In quel caso vuol dire che dall'alto, dal cranio arriva una forza di torsione. L'altra è l'addome. L'addome che si gonfia. Quindi anche per prevenire poi i dolori, se guidiamo tanto, stiamo tanto seduti. Adesso ci arriviamo, poi ecco, ai consigli per il viaggio. L'addome che si gonfia più del solito provoca questo tipo di dolore, che è diverso da quel dolore di quando siamo in piedi. Perché in piedi abbiamo una forza che ci attraversa dall'alto verso il basso, che ci dà appunto delle torsioni dovute a altri mille fattori, che potremmo vedere uno a uno, ma magari con più calma. Alessandro ci chiama da Milano, buongiorno e benvenuti, vogliamo fare un'infornata a proposito di caldo. Esatto, tanto continuiamo a mantenere vigili perché l'attenzione, perché noi vorremmo anche tema. Un po' scendere, perché sì, ci occupiamo spesso, perché sono quelli più diffusi, di dolori alla cervicale, sì. Dolore alla schiena, nella fascia lombare, proprio quella dove alcuni dicono o male ai reni, sì. O alle reni, ecco, proprio lì dove mettiamo le mani. Vogliamo anche rivolgerci a coloro che magari avvertono male alle estremità, ai piedi, certo. Quando magari sì. Alla sera togliete le scarpe, non necessariamente perché avete passato la giornata in piedi o su un tacco 12, ma proprio tutti quei dolori che avvertiamo nell'appoggio, avvertiamo quando muoviamo il piede. Quindi chiamateci 800 24 00 24, chiamateci anche se avvertite le gambe pesanti, è un classico durante il viaggio, ce ne parlava la nostra amica che ha fatto questo viaggio estenuante da Foggia a Milano con ritardo e caldo torrido, quindi perché ci sono dei punti anche per le gambe gonfie e dolenti, sì. Il professor Di Pietro, ricordo, me ne aveva insegnato uno, che il professor sì. Di Pietro ci può insegnare per fare che cosa? Per alleviarli se si sono già presentati, ma dato che ciascuno di noi conosce bene il proprio tallone d'Achille, tiratelo fuori e cerchiamo con l'aiuto di questo grandissimo esperto di fare un po' di prevenzione. Andiamo a Alessandro che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi contattato. Io, la mia esperienza è questa, io sostanzialmente ho una retinizzazione della colonna cervicale, cioè ho una, il fisiatra mi ha detto che ho un palo al posto del collo. Esatto, e quindi praticamente la suddivisione dei carichi è assolutamente disequilibrata e questo mi porta ad avere delle forti contratture, cioè io sono costantemente contratto, premetto che sulla colonna cervicale ho anche tra C3 e C5 una piccola protusione, ma ultimamente negli ultimi 3 settimane sostanzialmente io ho avuto proprio i soliti dolori alla schiena, tanto che mi sono stati consigliati dei miei rilassanti centrali, cioè nel senso per... però io non ho trovato grande beneficio e poi quindi la domanda una... Alessandro con domanda, il suo collo a palo che è carina come definizione la mia domanda è, io ho anche adesso una nevralgia sulla alla testa che non riesco cioè che non mi impedisce ovviamente di lavorare, ma è un fastidio costante. Volevo insomma capire perché che... quella cosa questo palme è un palmo, poi no? Lungo un palmo, allora, sì, il collo, ma ci dà un sacco di problema. Parte dalla spalla, arriva al trapezio e poi sale sulla nuca e arriva fino a dietro l'orecchio. Premesso che ho già fatto tutte le sì. Diciamo, allora le mi sembra varie. Alessandro, grazie che il professor Di Pietro abbia raccolto, perché vogliamo dare certo. spazio anche agli altri ascoltatori. Certo. Professore, mi sembra seguito già bene, perché il fisiatra che ha già fatto fare tutto questo mi sembra la persona più idonea, e quindi grazie per aver chiamato e comunque aver chiesto la nostra opinione. Sicuramente sarebbe anche bello chiedersi perché è diventata dritta quella colonna cervicale. Non nasciamo con la cervicale dritta, ma sono delle forze che poi abbiamo all'interno del cranio che portano la cervicale a diventare dritta. Non sempre il colpo di frusta, per esempio, perché sì. viene citato sempre quello, fa diventare dritta una colonna cervicale, sicuramente nel momento dopo l'incidente, perché abbiamo i muscoli che vanno a contrarsi in modo antalgico, ma se rimane come questa, immaginate la colonna cervicale, è una curva. Questa curva, come le altre curve che abbiamo nella colonna vertebrale, servono ad ammortizzare tutti i nostri insulti che diamo alla colonna, ed è il grande ammortizzatore. I piccoli ammortizzatori invece sono i dischetti che ci sono tra una vertebra e l'altra. Okay. Quando il grande ammortizzatore non funziona, perché non riesce ad ammortizzare questa curva, perché non c'è più, allora poi si possono rovinare anche i dischetti, perdono un po' d'acqua e arriviamo poi alle protusioni e alle ernie. Perché un consiglio per chi si ritrova in questa situazione, quindi avverte questa rigidità, andare a verificare se c'è la vista fuori posto o i denti fuori posto, perché sono quelli che danno le trazioni anomale alla colonna cervicale. Purtroppo dobbiamo salutarci, sì. professor Di Pietro, perché allora, salutiamo anche Deborah. Io ritorno il 24 agosto, ma vi lascio con Nicoletta, che poi a sua volta mi consegnerà l'ultima settimana del prossimo mese. Certo. Grazie a tutti. Un buona bacio vacanza da tutti gli ascoltatori, a Deborah. Grazie. A domani. A lunedì. A lunedì per te. Ciao.